Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti. È questo il quarto e il penultimo incontro che Villa Sant'Ignazio propone in occasione del centenario ignaziano. Per questo incontro gentilmente ha accolto il nostro invito il dottor Ezio Chini, che è certamente noto a tutti coloro che coltivano un interesse per quanto avviene nella cultura e nella storia artistica della nostra provincia, della storia dell'arte, del patrimonio artistico, della sua tutela e della sua conoscenza. Il dottor Chini si è occupato per molto tempo con incarichi prestigiosi e anche con molte pubblicazioni, perciò credo che non sia necessario procedere a ulteriori così dettagliate presentazioni. Il tema prescelto per questo incontro è collegato sì alla storia tridentina della Compagnia di Gesù, ma come la relazione che ascolteremo tra poco poi ci spiegherà dettagliatamente, copre un ambito evidentemente più ampio, perché la figura di Andrea Pozzo è legata alla storia della presenza trentina dei gesuiti, è una illustre cittadinanza che sicuramente il Trentino a buon diritto rivendica, però è anche vero che la sua collocazione, la storia della sua opera, stanno in un ambito molto più vasto che sta nel vivo della grande stagione del barocco romano e poi della sua espansione, della sua esportazione in una dimensione mitteleuropea. E proprio in questa luce mi pare il dottor Chini ha intenzione di presentarci quindi a 360 gradi l'opera artistica di Andrea Pozzo, della quale esistono delle tracce a volte problematiche nella nostra provincia, ma che di per sé non giustificherebbero un interesse così monografico. Evidentemente l'arte di Andrea Pozzo va bene al di là della storia della nostra provincia e in questa prospettiva ci disponiamo con interesse a ascoltare la relazione del dottor Chini. Grazie. Quella di Andrea Pozzo è una figura d'artista veramente complessa. È difficile racchiuderla entro confini precisi, perché è un uomo, un artista che ha dato alta prova di sé come pittore prospettico soprattutto, e come tale è comunemente conosciuto come un grande pittore prospettico, però si è esercitato, ha lavorato anche come pittore di pale d'altare, dipinti su tela, ha lavorato come architetto e anche come scenografo, quindi un uomo che ha avuto molteplici interessi. A questo poi bisogna aggiungere anche la sua particolare condizione di vita, cioè di membro della Compagnia di Gesù, era fratello laico della Compagnia di Gesù, gesuita, e quindi agisce come artista per tutta la propria vita all'interno del proprio ordine, essenzialmente decorando le chiese del proprio ordine o comunque lavorando in quell'ambito. Quindi è un artista anche religioso. Vorrei dire subito questo, che i diversi campi della sua attività si intersecano fra loro, per cui in molti casi proprio è difficile separarli, e questo lo vedremo poi attraverso anche le immagini, attraverso le diapositive che ho scelto, che vedremo nella seconda parte del nostro incontro. Certamente uno dei temi essenziali della sua personalità è costituito proprio dal binomio architettura reale e illusione architettonica, che dà un po' il titolo all'incontro nostro di oggi. Questo giocare, insomma, sempre in bilico fra la realtà e ciò che non è reale, ma ciò che viene proposto come reale, attraverso la capacità di illudere mediante gli artifici della prospettiva, come dicevo. E d'altra parte, questo è ben comprensibile per Andrea Pozzo se teniamo conto del periodo in cui vive. Cioè, Andrea Pozzo lavora nella seconda metà del Seicento, cioè nel momento in cui lo stile barocco, soprattutto lo stile barocco, diciamo, di impronta romana, ormai si è affermato in Italia e comincia ad affermarsi anche in Europa, e poi diventerà, diciamo, uno stile comune a tutta l'Europa, per non parlare poi anche dell'America, no? Dell'America centrale e dell'America meridionale. Quindi io cercherò così in breve, nel breve spazio che mi è concesso oggi, di mettere a fuoco questa attività del pozzo all'interno del più vasto fenomeno del barocco romano. Andrea Pozzo, gesuita trentino, si dice nel titolo della conferenza. Certamente, trentino di nascita, però vorrei subito chiarire che la sua attività si è svolta principalmente in altri centri, cioè Pozzo vive a Trento negli anni della giovinezza e probabilmente passò qui nel periodo tardo. Essenzialmente la sua attività si svolge a Milano, Torino, Genova, cioè diciamo fra Lombardia e Piemonte. Ha il suo cuore, forse il suo apice espressivo anche a Roma, dove risiede e lavora per circa 20 anni. Da Roma poi manda progetti per l'Italia e anche per territori al di fuori dell'Italia, e la carriera si conclude in un'altra capitale, si conclude a Vienna, e Pozzo muore appunto a Vienna nel 1709. Quindi i rapporti col Trentino sono abbastanza occasionali, però esistono appunto tracce consistenti di questi rapporti. Penso che tutti noi, quando parliamo di Pozzo e Trento, pensiamo alla chiesa di San Francesco Saverio. E la chiesa di San Francesco Saverio, di cui poi diremo meglio, rappresenta ancora un punto oscuro, rappresenta degli interrogativi, perché per tradizione è sì attribuita a idee di Pozzo, però probabilmente fu realizzata da altri. Io però credo che prima di passare proprio alle immagini sia opportuno dare una piccola traccia proprio del percorso biografico di Pozzo. Pozzo nasce nel 1642 a Trento. Il documento di battesimo è nell'archivio del Duomo, quindi è registrato, diciamo, nella parrocchia del Duomo. Il padre non è però trentino, il padre è lombardo di una famiglia proveniente da Pozzo di Valsolda, cioè dalla zona del lago di Como. Quindi il cognome deriva dal luogo, no? Come spesso accade. Nel 1661 entra nell'ordine dei Carmelitani, cioè l'attuale convento, diciamo, e chiesa delle Laste. Però vi rimane poco, perché nel 1665 lo troviamo documentato a Milano nella casa dei Gesuiti di Milano, che appunto si raccoglieva intorno a un'importante chiesa, importante anche dal punto di vista proprio artistico ed architettonico, la chiesa di San Fedele, nel cuore della città di Milano. E in questi anni, intorno al 1665, ha anche luogo la formazione artistica di Andrea Pozzo, che non è mai stata finora del tutto chiarita. Si dà per scontato un viaggio a Venezia, naturalmente la conoscenza della pittura lombarda, della pittura genovese, però finora non abbiamo documenti proprio sulla formazione sua. Sta di fatto che presto, ben presto, si mette in luce a Milano come pittore e soprattutto per la sua attività di inventore dei cosiddetti teatri sacri, cioè di quegli apparati effimeri che venivano costruiti all'interno delle chiese in determinate ricorrenze liturgiche, soprattutto durante la Settimana Santa, ma anche per la celebrazione delle grandi feste del cristianesimo, del cattolicesimo. E Pozzo dà grande prova di abilità in questo senso. I suoi apparati vengono molto apprezzati, tanto che nel 1671, quando è il momento di celebrare, diciamo, la canonizzazione di San Francesco Borgia, grande esponente dell'ordine, viene incaricato di costruire questo apparato celebrativo a San Fedele, e un altro apparato nello stesso anno, lo costruisce, lo progetta e lo fa realizzare a Genova. Quindi diciamo la sua fama si diffonde, tanto che un documento dell'archivio, insomma, del convento di San Fedele, la casa dei Gesuiti di San Fedele a Milano, del 1672, quindi aveva 30 anni in quel momento, lo qualifica come, in questo modo, si dice: est pictor et picturam continuo exercuit in societate. È un pittore e ha sempre lavorato come pittore nell'ambito della Compagnia di Gesù, no? Potremmo dire. E questa abilità dimostrata proprio negli apparati effimeri che presupponevano, diciamo così, la padronanza di diverse arti, la prospettiva, la pittura, conoscenza anche di architettura, proprio perché presupponevano, erano strutture teatrali, no? Che in un certo senso dei teatri sacri che erano destinate proprio a cogliere l'emotività, a stimolare l'emotività, l'emozione del fedele, no? E dicevo, proprio per questa sua abilità viene ad un certo punto nel 1676 incaricato di affrescare, di decorare con affreschi la chiesa dei Gesuiti di Mondovì, e vedremo poi come si è comportato in quell'occasione. La sua fama cresce tanto che nel 1681 padre Oliva, che era il generale della Compagnia di Gesù, lo chiama a Roma, lo vuole a Roma, cioè nel centro, diciamo, del cristianesimo, a Roma, dove appunto già esistevano almeno due grandi chiese, no? La chiesa del Gesù, che tutti conosciamo, ma anche l'altra grande chiesa dei Gesuiti, cioè la chiesa di Sant'Ignazio. E infatti a Roma lavora come pittore e lavora proprio alla decorazione di questi due grandi edifici sacri. E qui lascia veramente dei grandi capolavori. Il fatto, diciamo, l'elemento che proprio consacra la sua fama a Roma è la realizzazione della finta cupola della chiesa di Sant'Ignazio. La chiesa di Sant'Ignazio era rimasta incompiuta, la cupola non era stata edificata. Si pone quindi il problema di completare questa decorazione di questo interno. E Pozzo propone, incontrando anche l'incredulità, diciamo, di molti, di dipingere su una tela piana, naturalmente, una cupola in prospettiva, cupola che doveva essere vista da un certo punto di osservazione dal basso, e dipingerla con una tecnica altamente capace di illudere, in modo da, diciamo, da dare proprio l'illusione di una profondità spaziale che in realtà non esisteva. Dipinge questa cupola, che crea grande meraviglia. A questo proposito potrei anche leggere qualche riga di uno dei biografi del Pozzo, che è Francesco Saverio Baldinucci. È interessante sentire cosa dice Baldinucci. Dice: con ciò sa che, veduta nel suo punto, apparisce una cupola così vera e così riccamente ornata e di nobilissima architettura, che è capace di ingannare l'occhio non solo del volgo, ma eziandio d'ogni più esperto ed erudito maestro, col farla credere da ciascuno una cupola stabilmente fabbricata, quando è una pura e fragile tela distesa per piano e coperta solo di puri acquerelli. E da questo miracolo dipinto della cupola si passa poi al grande capolavoro per cui Pozzo è noto comunemente, cioè la decorazione della volta della chiesa, della grande volta della chiesa, la volta che copre tutta la navata della chiesa di Sant'Ignazio, la stessa chiesa. Poi i grandi altari, l'altare di Sant'Ignazio, fondatore dell'ordine nella chiesa del Gesù, l'altare di un altro importante santo, San Luigi Gonzaga, nella chiesa di Sant'Ignazio. Finché, dopo circa 20 anni di presenza a Roma, parte per Vienna. A Vienna giunge nel 1704, probabilmente nel corso del viaggio a Vienna si trattiene anche a Trento, è presumibile, questo è pressoché sicuro, anche se non ci sono dei documenti, e risiede a Vienna creando altre opere molto importanti come lavori di trasformazione della chiesa dell'università e altri affreschi, finché appunto nel 1709 muore a Vienna. E questo, è importantissimo questo passaggio al di là delle Alpi, perché è un modo, diciamo, per esportare la cultura architettonica proprio e decorativa del barocco romano. Questa presenza pozziana a Vienna avrà proprio conseguenze molto importanti, diciamo, sull'arte mitteleuropea. Per quanto riguarda, diciamo, la bibliografia, gli studi, lo stato della ricerca sul pozzo, bisogna citare appunto due biografie antiche, una di Baldinucci e l'altra del Pascoli, che però sono del 1730, sono molto suggestive, non sempre però attendibili, perché a volte cadono un po', diciamo, nella agiografia, possiamo dire. Abbiamo poi nella collana Artisti Trentini due piccole monografie uscite nel 1959 e l'altra nel 1961 su Pozzo Architetto e su Pozzo Pittore, cioè considerato separatamente. Il primo studioso che consideri Pozzo, diciamo, nella globalità della propria produzione è Kerber, che è appunto autore della monografia che ho qui sotto mano, che è però del 1971, quindi già 20 anni. Però negli ultimi anni c'è stata una ripresa di interesse nei confronti di questo artista, e allora potrei citare il libro di Vittorio De Feo, pubblicato a Roma nell'88, dal titolo Andrea Pozzo, architettura e illusione, che è utile proprio per orientare sull'attività artista e anche porta dei documenti molto interessanti. Poi, per comprendere quest'artista, direi che è molto interessante far riferimento a quel bellissimo volume di Haskell, di Francis Haskell, che ha il titolo Mecenati e pittori, soprattutto nel terzo capitolo, nel quale si parla del barocco romano e della funzione esercitata all'interno della cultura barocca romana dagli ordini religiosi, e dedica pagine molto interessanti proprio in questo senso. Detto questo, credo che potremmo cominciare anche a vedere alcune immagini, permettendo però un fatto, insomma, che le prime immagini non sono immagini di opere di Andrea Pozzo, ma sono immagini di Bernini, cioè, diciamo, del padre del barocco per quanto riguarda l'architettura e la scultura, diciamo, perché diciamo, Bernini è forse per certi aspetti la massima espressione di questa cultura, di questo stile, e Pozzo naturalmente non può non tenere conto del suo insegnamento, del suo prestigio, della sua grandezza, della grandezza appunto di Bernini. Poi vedremo qualche altra immagine di decorazioni di soffitti, immagini che sono importanti perché servirono certamente come elementi ispiratori del Pozzo per la sua proprio attività di decoratore. Tipico della cultura barocca è proprio il gusto della decorazione di soffitto, con l'intento proprio di creare visioni e spazi che non esistono nella realtà, cioè di giocare molto sull'illusionismo prospettico. Dopodiché appunto vedremo delle opere proprio realizzate dal nostro artista, e lo seguiremo proprio fino alla fine, scegliendo naturalmente alcuni esempi, fino alla fine, cioè fino al periodo di Vienna. Credo che a questo punto potremo anche passare a vedere le immagini, che dicono molto di più di quanto non si possa dire con le parole, proprio perché l'arte sua, l'arte di Pozzo, l'arte del barocco è essenzialmente comunicazione, comunicazione visiva, coinvolgimento emotivo. E vediamo appunto come Pozzo coinvolge, cerca sempre nella propria opera di coinvolgere lo spettatore e soprattutto i fedeli, perché la tematica svolta da Pozzo è essenzialmente una tematica di carattere religioso. No? Adesso spegniamo le luci. Sì, come ho già detto, non è certamente casuale l'apertura delle immagini col baldacchino del Bernini all'interno della Basilica di San Pietro, perché questo è uno dei manifesti del barocco, almeno per quanto riguarda la produzione della scultura e dell'architettura. E già il baldacchino del Bernini, insomma, ci fa capire un fatto e ci pone un interrogativo. È questa una scultura o è un'architettura? Direi che è entrambe. Nel senso che, tipica appunto dell'arte barocca, è la fusione degli stili, cioè la concezione dell'opera d'arte totale, cioè di un'opera d'arte che ha come fine la comunicazione e che si vale di tutti i mezzi e di tutte le tecniche, le tecnologie, di tutti i materiali disponibili per giungere al risultato, allo scopo che è quello della comunicazione. Naturalmente il baldacchino del Bernini ha un elemento così rivoluzionario in sé, cioè la colonna tortile, la colonna che segue un percorso elisoidale, che poi troviamo molte volte, elemento che non è stato inventato da Bernini, che Bernini desume dalla tradizione, ma che potenzia, amplifica e che poi viene poi ripreso anche proprio da Andrea Pozzo. Siamo sempre all'interno della Basilica di San Pietro e altro elemento del stile barocco che risulta in maniera molto chiara da questa immagine è la teatralità, la teatralizzazione del fare artistico. Qui siamo nella parte absidale, è la cattedra di Pietro, cioè una struttura che racchiude i resti veri o presunti della cattedra del primo Papa di San Pietro. E alla base stanno le sculture, le grandi statue dei padri della Chiesa che reggono la cattedra, mentre sopra, circondata da una gloria d'angeli, vedete appunto l'immagine dello Spirito Santo nella vetrata. Quindi questo è veramente uno degli apici del Bernini e proprio di questo senso teatrale, sensuale proprio, diciamo, tipico dell'arte barocca. Basta poi osservare queste figure, questi sono dei dettagli appunto delle due coppie di padre della Chiesa, no? Il movimento delle vesti e questo gesticolare, è tutta una volontà di comunicare proprio, ecco vedete, no? Di comunicare con il fedele. Come anche, diciamo, decisamente teatrale, e non voglio dare un senso negativo al termine teatrale, ma comunque decisamente teatrale è questa figura. Sempre all'interno di San Pietro, questo è Longino che spalanca le braccia vedendo Cristo morto, Cristo morire in croce, no? E quel movimento proprio tende a coinvolgere la nostra emotività. E qui un'altra opera celebre che ho scelto volutamente, uno dei grandi capolavori di Bernini, cioè l'Estasi di Santa Teresa. Anche in questo caso l'impostazione della scultura, l'angelo, la santa e diciamo anche la struttura architettonica che vedremo nella prossima immagine, sono tutti pensati proprio in funzione del coinvolgimento emotivo. Ecco. Dicevo prima appunto della grande passione del barocco per i soffitti, per le decorazioni a soffitto, e allora non si può prescindere da questa decorazione, che è uno dei capolavori di Pietro da Cortona, uno dei padri, insomma, potremmo dire, della pittura barocca, uno dei grandi protagonisti della prima stagione, quantomeno, insomma. Pietro da Cortona, questa è la volta del Palazzo Barberini, cioè palazzo della famiglia alla quale apparteneva il Papa Urbano VIII. E nel salone i Barberini incaricano Pietro da Cortona di raffigurare il trionfo della Divina Provvidenza, che poi in realtà era il trionfo della famiglia Barberini, di cui vedete, forse da lontano non si vede, di cui vedete però nella parte alta, all'interno di quella ghirlanda tenuta da figure d'angeli in volo, tre grandi api, cioè sono le tre api disposte nella stessa formazione che le api appunto tengono nello stemma Barberini. Quindi l'esaltazione di una famiglia. Ma quel che ci interessa qui è questo impeto vorticoso delle figure, questa tendenza proprio a sfondare il soffitto, a creare degli spazi aperti, o quantomeno l'illusione dello spazio aperto. Sono tutti elementi di cui appunto Pozzo terrà certamente conto, e lo vedremo fra poco. Qui ancora un'altra opera di Pietro da Cortona, qui siamo a Palazzo Pitti. Questa può essere interessante perché per confermare il discorso che facevo prima, cioè il discorso che il barocco, la cultura barocca utilizza tutte le tecniche, e qui vediamo l'affresco associato allo stucco, l'affresco e lo stucco che contribuiscono a creare questo senso di fasto, questo senso di profondità nei soffitti. Anche questa è una volta, è una delle volte dell'appartamento del Granduca Ferdinando II a Palazzo Pitti a Firenze. E andiamo avanti di qualche anno, qui siamo nella chiesa del Gesù, quindi la chiesa madre della compagnia di Gesù. Questo è un pittore genovese, è il Gaulli, Giovanni Battista Gaulli, che qui crea uno dei suoi capolavori, uno dei capolavori, diciamo, della decorazione barocca in assoluto. Qui siamo negli anni intorno al 1670 o poco dopo. E vedete, niente proprio di meno che una volta, una grande volta, che improvvisamente si spalanca, si apre per forza di quella luce che proviene dall'alto, quella luce che viene emanata dal nome di Gesù. Cioè il tema svolto qui è l'esaltazione del nome di Gesù. Quella luce che appunto penetra all'interno della chiesa, come dal cielo direttamente, e fa precipitare, diciamo, quelle figure che vedete nella parte bassa e che sono dipinte e che però hanno un tale rilievo da sembrare vere. Quindi anche qui l'effetto dell'illusione è particolarmente ricercato, anche perché vicino alle figure dipinte si trovano delle figure in stucco. Quindi ancora una volta questo utilizzo di materiali, di tecniche comunicative e anche proprio di materiali diversi. Un'immagine del genere mira a suggerire proprio l'idea dell'infinito, di uno spazio infinito, di uno spazio che non ha limiti. E questo appunto è tipico proprio della cultura barocca, dello spazio infinito. Ma ora veniamo a vedere qualche opera proprio del Pozzo, di Andrea Pozzo. Qui siamo appunto a Mondovì, è una delle opere relativamente giovanili. Era una chiesa costruita da qualche tempo da un architetto non particolarmente importante, una chiesa che non aveva soddisfatto pienamente dal punto di vista architettonico i committenti, e quindi i gesuiti incaricano il loro confratello di correggere, diciamo, con l'arte della pittura, e di una pittura particolare, una pittura prospettica, di correggere, diciamo, questa spazialità insoddisfacente di questo interno di questa chiesa. E allora il Pozzo dipinge una finta cupola. La cupola è tutta quanta dipinta su una volta abbastanza bassa. E naturalmente la chiesa è dedicata a San Francesco Saverio, quindi nella parte alta, qui non si vede, ma comunque nella parte alta, abbiamo naturalmente la gloria, la glorificazione del santo, di San Francesco Saverio. La prossima immagine forse ci rende meglio l'effetto di questa finta cupola, cioè di queste colonne dipinte che vanno verso l'alto e che proprio guidano il nostro sguardo verso l'esplorazione di uno spazio che in realtà non esiste. Naturalmente alle spalle di Pozzo c'è tutta una lunga tradizione, c'è la tradizione, una tradizione che ha radici ancora nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, ma quel che più importa è che Pozzo proprio sviluppa questa tendenza della pittura illusionista, la porta veramente ai massimi livelli. La porta ai massimi livelli anche creando, diciamo, delle strutture architettoniche così poco plausibili, criticabili dal punto di vista, diciamo, della trattatistica. Insomma, vedete, qui ci sono delle colonne che non poggiano su piedistalli, ma poggiano su delle mensole. Quindi scaricano il peso, diciamo, non su un punto forte della struttura, ma su una sporgenza, su una mensola, sul vuoto, no? E infatti Pozzo, nell'età, diciamo, neoclassica, diciamo, nella seconda metà del Settecento, non viene compreso, cioè non viene apprezzato, anzi viene duramente attaccato, fra gli altri, da uno dei teorici appunto del neoclassicismo, cioè quel Francesco Milizia, che nel 1768 scrive appunto un'opera dal titolo Memorie degli architetti antichi e moderni. E Milizia condanna, oltre a condannare Bernini, Borromini, Guarini e tutti i grandi artisti del barocco, condanna anche Pozzo e lo chiama architetto alla rovescia. Lo chiama pittore di strepito, no? Che volle mettere mano anche all'architettura. E qui vi leggo una breve frase che si attaglia abbastanza bene a questa immagine, in cui dice Milizia: piedistallo sopra piedistallo, colonne sopra mensole, eccolo qua, ondulazioni continue, frontespizi infranti, e quel che è più mostruoso, colonne sedenti. Poi vediamo dopo questo elemento, le colonne sedenti, cioè storte a guisa di un serpe che voglia erger ritto, che si voglia erger ritto in aria. Quindi diciamo una totale incomprensione, d'altra parte è tipica appunto del momento neoclassico nei confronti del barocco, di questa fantasia sfrenata, di questa di questo, diciamo, anche spregiudicato uso, se volete, dei mezzi pittorici. Ma noi certamente al giorno d'oggi non abbiamo più questo genere di prevenzioni, a noi importa appunto comprendere il prodotto artistico storicizzandolo, no? Senza prese di posizione di carattere a prioristico. Qui siamo sempre all'interno della chiesa di Mondovì, questo è un altare, un finto altare. L'altare non esiste, cioè l'altare in pietra sta più in basso, vedete nella parte bassa il tabernacolo. Quella che vedete in questa diapositiva è semplicemente un affresco, una decorazione absidale, però condotta in maniera tale da dare l'impressione dell'esistenza effettiva di quella struttura. Sempre la stessa chiesa, la decorazione absidale, e qui vedete molto chiaro, si vede in modo molto chiaro la capacità dell'artista, che in questo caso appunto ha affrescato la conca absidale, cioè la parte semicircolare, di raccordare l'affresco con l'architettura esistente, cioè le colonne, il cornicione che vedete in basso e dalle parti. Per cui noi abbiamo il senso di uno spazio unitario. E appunto, siccome la chiesa è dedicata a San Francesco Saverio, l'artista dipinge nell'affresco San Francesco che battezza i convertiti, no? San Francesco Saverio, apostolo delle Indie, quindi nel pieno della sua attività missionaria. E la prossima immagine è l'immagine del modello del di un quadro piccolo che è servito al pittore come modello per poi realizzare questo grande affresco. Il modello è molto bello e adesso lo vediamo, e è conservato al Castello del Buon Consiglio e lo possiamo ammirare. Vedete, è la stessa composizione, cioè il santo che si protende a battezzare e alle sue spalle queste grandi architetture, questa grande scenografia che amplifica con una certa enfasi proprio questa azione missionaria, no, del santo. Quindi dipinto su tela, modello per l'affresco. E dicevo poco fa che appunto Pozzo si impone proprio come creatore di queste strutture, di questi teatri, di queste strutture effimere, sono gli effimeri, strutture, come dicevo, fatte di materiali così poco costosi, no? Legno, stoffa, cartapesta, tela, dipinte rapidamente a tempera, ad acquerello, cioè realizzate in brevi tempi, strutture che poi duravano per il tempo che era necessario e dopodiché venivano rimosse, perché venivano proprio realizzate all'interno delle chiese, no? All'interno degli edifici sacri. E noi però diciamo, conosciamo queste strutture, alcune di questi apparati effimeri, attraverso le immagini che vedete, queste e tante altre naturalmente, che sono delle stampe, sono delle incisioni che ornano, diciamo, illustrano il trattato di Andrea Pozzo, il trattato sull'architettura, cioè sulla prospettiva, sul trattato sulla prospettiva pubblicato da Andrea Pozzo. Andrea Pozzo appunto pubblica a Roma in due volumi, il primo nel 1693, il secondo proprio nell'anno 1700, il suo trattato, che ha per titolo appunto La prospettiva dei pittori e degli architetti. E oltre a fornire, diciamo, istruzioni e indicazioni su come eseguire correttamente, rispettando le leggi matematiche, prospettive, come cioè dare questa illusione di profondità spaziali non esistenti, riproduce anche immagini di proprie opere, dei propri altari, delle proprie costruzioni, dei propri teatri sacri, dei propri prodotti, diciamo, effimeri, che così noi possiamo conoscere. Il trattato di Pozzo ha avuto una enorme fortuna, è stato immediatamente tradotto in numerose lingue europee e capite, è evidente, no? Che è anche extraeuropei. Ho letto anche con una certa sorpresa che ne esiste una traduzione eseguita ancora al principio del Settecento, quindi poco dopo la pubblicazione, in lingua cinese. Quindi, ad ogni modo, voglio dire, questo trattato che viene tradotto e che si sparge per l'Europa, per il mondo, ha un influsso determinante proprio sulle vicende del tardo barocco e anche del primo rococò, soprattutto nell'Europa centrale. Questo è un fatto veramente straordinario che ci dà l'idea proprio del prestigio dell'artista. Ecco qui un dettaglio proprio di una delle immagini precedenti. Anche qui vedete appunto questo senso del teatro. Qualcuno ha detto che appunto scopo degli artisti barocchi era di mettere in scena il mondo, il mondo. Proprio perché lo scopo era quello di coinvolgere la fede, suscitare emozioni ai fini proprio della persuasione religiosa. Questo non è un'immagine tolta dal trattato, ci rendiamo benissimo conto, è invece un disegno, uno dei non molti disegni conservati di Pozzo, però di splendida qualità, veramente bellissimo. Questo si conserva al gabinetto di segni e stampe degli Uffizi. A che cosa servisse non sappiamo esattamente, però poteva essere un altare, poteva essere parte di un apparato effimero. Certo, quello che ammiriamo è proprio questa valenza spettacolare, questa valenza scenografica straordinaria. E qui appunto arriviamo alla chiesa di Sant'Ignazio, così come si presenta oggi, cioè come si presenta oggi grazie proprio all'intervento decorativo di Andrea Pozzo. Chiesa con una grande navata fiancheggiata da cappelle, che appunto, come dicevo, era rimasta senza cupola, cioè aveva una copertura piana. E anche la volta, le volte erano decorate con dei semplici stucchi, e quindi con un sistema decorativo che non poteva essere considerato soddisfacente. E allora qui appunto Pozzo interviene e dipinge la finta cupola. Eccola, questa è la finta cupola di Sant'Ignazio, cioè è un nient'altro che un grande dipinto su tela di circa 16 o 18 metri di diametro, quindi anche di dimensioni ragguardevoli, applicato proprio alla volta. Quindi una cupola, una decorazione pittorica che, vista da un determinato punto di osservazione, dà pienamente l'illusione della profondità, e che appunto affascinò i contemporanei. Anche qui vedete, no, lo stesso motivo delle colonne che poggiano sulle mensole, poi di questi costoloni che si dirigono verso l'alto, che si concludono appunto nella lanterna, con grande abilità proprio nella resa della profondità. E qui mi piace a questo punto far vedere proprio l'autoritratto di Pozzo, cioè questa era l'immagine che l'uomo artista, l'uomo religioso, voleva dare di sé. Un'immagine molto bella, direi che fra gli autoritratti di artisti questo è uno dei più belli. E come si presenta? Si presenta naturalmente nell'abito di religioso, con una mano, forse non si vede nell'immagine, ma con la mano bassa la tiene poggiata su dei libri, sulla scienza della prospettiva, come per dire che la sua attività si basa sulla scienza, un'attività scientifica, si basa sulla matematica, su Euclide, no? Potremmo dire. L'altra mano invece è rivolta verso l'alto e indica una cupola, e è la cupola di Sant'Ignazio, perché il ritratto risale a quel periodo, cioè al momento della finta cupola che abbiamo appena visto, la cupola di Sant'Ignazio. E forse vedete anche un po' la volta della chiesa dietro, nella parte dietro, la volta che poi decorerà, lasciando forse il massimo capolavoro, e di cui poi parleremo in dettaglio. Quindi quest'uomo, diciamo, che ci indica la cupola così, con per questo mi piace il ritratto, non con un senso trionfalistico, no? Come dire, guardate cosa ho fatto, guardate l'opera per la quale a Roma sono divenuto tanto famoso, sono tanto richiesto, l'opera che mi consente di fare l'artista all'interno del mio ordine senza avere altre incombenze, cioè tutte queste cose, no? Ma lo sguardo tradisce, come dire, la fatica, e quasi sembra quasi volersi comunicare, volersi dire: io faccio questo lavoro, però è faticoso, è difficile, occorre molta pazienza, molto studio, molto impegno per arrivare a questi risultati. Cioè io interpreto in questo senso questo ritratto, quindi non come un'autocelebrazione, ma come un uomo che presenta se stesso e il proprio mestiere. Semmai si presenta come uno che sa fare bene, però con umiltà, il proprio mestiere. Niente, niente di più, niente di meno. Qui torniamo al trattato. Naturalmente è facile immaginare che appunto nel trattato del Pozzo molto spazio venga dedicato proprio a questo gioco, a questo giocare nel costruire le finte cupole, no? È evidente. E appunto questo è un esempio proprio all'interno del trattato. Vedete che anzi, molto probabilmente è proprio la cupola di la finta cupola di Sant'Ignazio, no? Non sempre però le stampe del trattato hanno una diretta corrispondenza con l'architettura reale oppure anche con l'architettura dipinta realizzata, diciamo, e a volte ci sono delle differenze, poi vedremo un esempio. E qui torniamo all'interno di Sant'Ignazio, che è la chiesa splendida, che deve proprio la sua immagine, il suo fatto, questa ricchezza decorativa, mi riferisco agli affreschi, proprio all'intervento determinante, risolutore del pozzo. E abbiamo visto l'abside nell'immagine precedente, qui vediamo questa incisione che riproduce l'abside. Qui naturalmente le stampe sono un veicolo importantissimo, sono sempre stato un veicolo importantissimo per la diffusione di idee figurative, di idee pittoriche, che poi vengono riprese da altri artisti e quindi vengono rielaborate ed esportate e diffuse, no? E qui siamo appunto al clou, potremmo dire, di Andrea Pozzo, cioè a questa grande impresa decorativa di cui poi vedremo altre immagini, che è la appunto di Sant'Ignazio, della chiesa di Sant'Ignazio. E qui veramente dobbiamo dedicare qualche attimo alla concezione dell'infinito, diciamo, che è tipica, che è un'acquisizione tipica appunto del Seicento e che viene portata all'esaltazione, quasi al parossismo, dalla cultura barocca. Va detto subito che questo tipo di pittura, questo sfondare gli spazi, questo suggerire l'infinito, ha naturalmente delle radici nella filosofia. Pensiamo per esempio a Giordano Bruno e al suo famoso scritto, che è della fine del Cinquecento, che ha un titolo molto significativo. Il titolo è dell'infinito universo et mondi. C'è questa percezione, diciamo, profonda della infinitezza del creato, di una natura che non ha limiti e che quindi offre uno spettacolo continuamente mutevole, continuamente vario, sorprendente, affascinante e per certi aspetti inafferrabile per l'uomo. D'altra parte, alla base di questo sta naturalmente tutta la nuova concezione dell'universo, tipica dell'età moderna, diciamo dalla fine del Cinquecento e poi soprattutto del Seicento. Naturalmente pensiamo alla rivoluzione copernicana, no? La Terra non più al centro del sistema dell'universo, ma la Terra come uno dei pianeti che compongono un sistema, il sistema solare. Pensiamo poi, oltre a Copernico, a Keplero e pensiamo anche a Galileo, cioè a questo sostanzialmente all'affermarsi della consapevolezza che la Terra prima di tutto non è al centro, quindi l'uomo non è al centro di tutto, ma è parte di un qualche cosa di incommensurabile, che è l'universo, che appunto è infinito. E quindi la Terra non è al centro di tutto, ma neanche il sistema solare è l'unico sistema, ma è solamente uno dei tanti aggregati dispersi nello spazio infinito. E quindi dovette essere, diciamo per gli intellettuali del tempo e per gli artisti del tempo, anche un motivo così, in un certo senso, di fascino, ma anche di sconforto, di turbamento, questa sensazione, cioè la percezione di quanto è piccolo l'uomo di fronte all'immensità della natura, che veniva proprio da Keplero, Galileo e da altri, dimostrata scientificamente. E allora l'arte barocca, questo gusto per l'infinito, che è tipico del barocco, viene anche spiegato in questo senso, no? Percezione proprio di una, come una nuova percezione della realtà. Naturalmente qui abbiamo di fronte una raffigurazione di carattere religioso. Siamo in una chiesa, qui si esalta il santo, cioè Sant'Ignazio naturalmente. E allora qui la percezione dell'infinito va a collegarsi, questo è un fatto importantissimo, con la percezione del divino, sentito come infinito. Però la cosa interessante del barocco è che il divino sì viene sentito come infinitamente grande, però contemporaneamente, soprattutto da parte di Pozzo, viene sentito anche come vicino all'uomo. Forse, cioè, detto così sembra una contraddizione, però in realtà non è una contraddizione, nel senso che è vero che l'uomo in un certo senso si perde, si disperde nell'infinità della natura, nell'infinità dello spazio, però è anche vero che questa infinità fa capo alla infinità di Dio, cioè all'immensità di Dio e all'immensità della sua misericordia, della sua comprensione nei confronti degli uomini, cioè insomma al concetto della provvidenza. Quindi è anche possibile comunicare. È vero che i santi sono lontani nell'alto delle volte, però il riflesso dell'attività divina e quindi di Sant'Ignazio e quindi in questo caso dell'attività missionaria della Compagnia di Gesù poi si avvicina a noi, perché come poi vedremo, partono dei raggi luminosi dal cuore di Sant'Ignazio che si dirigono verso i quattro continenti allora conosciuti, no? Poi vedremo dei particolari. E quindi anche il fatto che a un certo punto lo spettatore si senta, diciamo, risucchiato da questo paradiso è molto, molto importante, è molto significativo di questa concezione. Cioè da un certo punto di vista, quindi l'incommensurabile, da un altro punto di vista la possibilità di avvicinarsi tramite la fede all'incommensurabile, perché l'artista cerca di risucchiare proprio con gli espedienti, diciamo, della prospettiva, questo il fedele nello spazio, diciamo, della fede, nello spazio di Dio, no? Questo è l'intenzione, il concetto, no? Di Pozzo e di tante decorazioni sacre del periodo barocco. A questo proposito, mi permetto di citare, di leggere qualche frase proprio di Andrea Pozzo, che in una lettera dà la spiegazione iconografica di questo grande affresco. E scrive: «Il primo lume che ebbi a formare questa idea mi venne da quelle sacre parole: Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur». C'è una frase appunto del Vangelo di Luca, in cui Cristo a un certo punto dice: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e non desidero altro che questo fuoco si accenda», cioè fuoco della fede naturalmente, no? Della conversione. E allora dice il Pozzo: «Ho preso lo spunto da quelle parole, congruentemente adattate da Santa Chiesa a Sant'Ignazio, essendo egli stato zelantissimo di propagare la religione cattolica e la luce dell'Evangelio», cioè uno che ha portato il fuoco nel mondo, insomma, no? Vuol dire, appunto, per tutto il mondo, servendosi perciò dell'opera dei suoi compagni e figlioli, frequentemente da lui incitati con quelle celebri voci. E qui riporta un'altra frase latina di Sant'Ignazio: «Ite omnia incendite et inflammate», andate insomma a infiammare il mondo. E allora io adesso ve lo riassumo così per non essere troppo pesante, e in sostanza, credo che lo vedremo forse nelle prossime immagini, Pozzo dice di aver avuto quest'idea, cioè l'idea di, ecco qui è un particolare ravvicinato, di raffigurare la figura di Cristo, che è proprio nella parte più alta di questa diapositiva, no? Nell'alto del cielo, no? Dal petto di Cristo, proprio dal cuore, no? Parte un raggio, non so se riuscite a vederlo, che va a colpire il petto del santo cioè di Sant'Ignazio, con le braccia aperte. A sua volta questo raggio poi si diparte in altre quattro direzioni fondamentali, e le direzioni sono, il raggio si va a raggiungere i quattro continenti. Quindi è chiaro il significato, cioè questo fuoco, no? Da Cristo a Sant'Ignazio e da Sant'Ignazio ai quattro continenti, cioè a tutto il mondo. E ora vedremo appunto le raffigurazioni appunto dei, almeno di due di questi continenti. Ve vediamo la prossima immagine. Qui appunto vedete, no, la frase che ho citato: et quid volo nisi ut accendatur, c'è un angelo che appunto accende la fiamma, no? Fiamma della fede, no? Questo è un dettaglio appunto della volta. Ecco, qui ancora appunto la volta nel totale, i continenti appunto sono raffigurati nelle parti più basse, due per parte. Ecco l'Europa. L'Europa è raffigurata come una donna così riccamente abbigliata, che riceve il raggio e contemporaneamente però vedete con i piedi, almeno con un piede si vede in maniera chiara, abbatte, calpesta una figura maschile, una possente figura maschile che evidentemente è un simbolo dell'eresia, dell'errore, insomma, cioè diciamo il trionfo della fede sulla malvagità, potremmo dire, no? E lo stesso concetto, la stessa cosa possiamo vedere nella prossima immagine, cioè nella raffigurazione dell'America. Ecco l'America, vedete, no? Questa donna che ha le piume, no? sul capo, e con una lancia proprio abbatte quelle figure. Cioè, qui viene in mente la figura dell'arcangelo Michele che abbatte gli angeli ribelli, li caccia all'inferno, no? L'immagine molto frequente appunto nel periodo barocco, no? E qui avete proprio questo senso illusionistico, questo inganno di figure che sembrano precipitare proprio all'interno della chiesa, cadere sul pavimento addirittura, no? Ecco, qui appunto ancora un'immagine di queste superbe architetture che danno una profondità straordinaria alla volta. La volta che, per essere apprezzata in tutta la sua bellezza, deve essere vista da un punto di osservazione ben preciso segnato sul pavimento. Ecco, vi prego di porre attenzione un momento a quella finta architettura, quell'arco sostenuto da colonne dalle parti. Quello è un elemento molto caro a Pozzo, lui lo riprende in tante opere, è un elemento che poi ha avuto anche una grande fortuna nella pittura, e la prossima immagine, se ricordo bene, dovrebbe raffigurare un affresco, vediamolo, eccolo qua, vedete la stessa struttura, un affresco eseguito non molti anni dopo, circa una trentina anni dopo, che si trova qui vicino a Trento, cioè è uno dei soffitti della villa dell'Acquaviva, vicino a Mattarello. Quindi diciamo, potremmo dire, una traduzione in chiave così abbastanza provinciale, se volete, di un'idea pozziana, no? Ma si trovano ovunque queste traduzioni, diciamo, queste riprese di idee compositive di Pozzo, no? Sono frequentissime. Bene, qui vediamo molto rapidamente un'altra opera capitale della sua attività. È un'opera che lo impegnò appunto negli ultimi anni del Seicento, cioè quando si trova a Roma, dopo il 1690, è l'altare di Sant'Ignazio, l'altare, ma non solo l'altare, anche l'ornamentazione della cappella, le sculture che stanno intorno, nella chiesa del Gesù, nel transetto di sinistra della chiesa del Gesù. Anche qui un'opera straordinaria dal punto di vista architettonico, dal punto di vista proprio dell'effetto scenografico. Qui quest'altra immagine ci dà conto proprio del fasto, della preziosità dei materiali adottati proprio per esaltare il grande santo. E quest'altra immagine qui è interessante perché è un gruppo scultore che si trova appunto a fianco dell'altare, eseguito da uno scultore francese, Legros, che raffigura, diciamo, la fede che abbatte l'eresia. Anche qui un po' questo, lo stesso concetto che era stato raffigurato nell'affresco, qui passa, diciamo, nella scultura. Sì, c'è indubbiamente un certo trionfalismo cattolico, no, in queste raffigurazioni. Questo senso della superiorità, questa specie di eurocentrismo, potremmo dirlo con termini moderni, no? D'altra parte questo senso trionfante, della Chiesa trionfante, è appunto tipico del barocco e potremmo anche parlare di una specie di secolarizzazione, diciamo, dei certi aspetti, diciamo, della cultura pittorica, anche sacra, barocca. E qui appunto l'incisione che riproduce la cappella col grande altare, lo splendido altare, ricco di marmi, di dorature, di stucchi, appunto all'interno della chiesa del Gesù. Qui vediamo un altro altare, costruito più o meno negli stessi anni, dedicato a San Luigi Gonzaga. Questo invece si trova nella chiesa di Sant'Ignazio. E qui vedete, molto interessante, il ritorno della colonna tortile, cioè le colonne ne ho visto nella prima diapositiva, cioè la colonna del Bernini, no? Che peraltro qui sono disposte con un artificio piuttosto curioso, con andamento opposto, cioè il giro, il movimento, no? Non è lo stesso per le colonne, ma c'è una contrapposizione, quindi con questo senso di bizzarria, anche di instabilità, che ci dice qualcosa anche sul, direi, sul gusto del posto, sulla sua libertà fantastica, no? In un certo senso. Ecco, qui come appare in una incisione l'altare appunto di Sant'Ignazio. Di San Luigi Gonzaga. Questo è l'altare di San Luigi Gonzaga. Ecco, qui appunto troviamo nel trattato questa figura di quest'altare che non è mai stato realizzato, che ha questa stranezza, la stranezza appunto delle colonne sedute, quelle tanto criticate da Milizia, da Francesco Milizia nell'opera, diceva prima, sedute quasi a modo di serpenti che sembra che, no, che stiano per rizzarsi, no? Ecco. Questo è un esempio di idea architettonica presente nel trattato, ma che non ha trovato realizzazione. Qui invece abbiamo un'idea architettonica che invece è stata realizzata. È un altare con al centro una scultura con San Sebastiano, quello è San Sebastiano legato che viene colpito dalle frecce, no? E l'altare è stato realizzato per una chiesa di Verona. Attualmente non è a Verona, si trova in una chiesa nei dintorni, ma in origine era appunto nella chiesa di San Sebastiano Verona e lo vediamo nella prossima immagine. Così come è stato realizzato da un altro architetto, che riprende l'idea del pozzo. Quindi le idee del pozzo vengono spesse volte modificate, vengono anche semplificate, no? Comunque anche qui è ben evidente il ruolo proprio della figura del santo. E anche molto importante, diciamo, quel fondale di colonne, di timpani, di coronamenti in marmo che stanno proprio a esaltare la figura del martire, no? Sempre secondo questa concezione, no? di voler cogliere l'emotività, l'emozione dell'osservatore, di commuoverlo, insomma, sostanzialmente, no? E qui siamo in ambito trentino, non che questo altare sia di Andrea Pozzo, però è opera di un grande artista, di Cristoforo Benedetti, uno dei grandi costruttori di altari attivi alla fine del 600 e al principio del 700 nel nostro territorio. Cristoforo Benedetti è importante non solo per questo altare, ma perché ha costruito un altare su disegno proprio di Andrea Pozzo, e di questo altare non ho l'immagine di quello del Pozzo purtroppo, ma comunque è ancora conservato e si trova nella chiesa delle Grazie presso Arco, fra Arco e Riva del Garda. Un altare bellissimo in marmo che sappiamo appunto essere stato realizzato su progetti di Pozzo, per volontà del committente, che era un committente illustre, era un committente importante, era uno dei conti d'Arco. E lo realizzano i Benedetti. Ma è evidente anche in questo altare, che è l'altare maggiore della chiesa della Pieve di Villa Lagarina, È evidente, dicevo, in questo altare, l'influsso del pozzo, degli altari del pozzo, di questa cultura romana, del barocco romano, di questa cultura scenografica spettacolare. Basta vedere appunto la presenza delle statue, la disposizione delle colonne su assi diversi, su piani diversi, alcune più vicine allo spettatore, altre su un piano più distanziato. Basta vedere nella prossima immagine la complessa struttura della parte superiore che è traforata, no? Che crea diversi piani proprio all'interno della struttura, diversi piani di profondità, e quindi offre spazi e occasioni alla luce di muoversi e di giocare, di creare effetti suggestivi, effetti teatrali potremmo dire, no? Quindi diciamo questa teatralizzazione dell'espressione artistica. Certo, questo altare è un capolavoro e le radici culturali sono a Roma. È pensabile che Cristoforo Benedetti sia stato a Roma, è un'ipotesi questa, è stata avanzata da Erasmo, mi sembra accettabile, e che lì abbia ricevuto forti impressioni proprio nel senso della realizzazione di questi grandi altari barocchi. E qui appunto arriviamo alla chiesa di San Francesco Saverio. Questa per tradizione è attribuita ad Andrea Pozzo. Sappiamo dai documenti che l'inizio dell'edificazione avviene nell'anno 1700, ci sono poi dei documenti relativi agli anni 1708, 9, eccetera, viene consacrata nell'11, due anni dopo la morte di Pozzo. Non sono emersi documenti finora. Lia De Finis, che pure ha studiato a fondo il patrimonio documentario, no? Come ben sapete, insomma, del Collegio dei Gesuiti di Trento, non ha trovato nessun riferimento, nessun documento che ci dica che qui Pozzo ha realizzato un progetto o ha lasciato dei disegni. Però questo non ci autorizza certo a escludere un suo intervento, anzi, probabilmente, soprattutto per quanto riguarda l'interno, qui idee di Pozzo ci sono, c'è una matrice, e gli studiosi sono unanimi nel riconoscerla questa matrice pozziana, anche se non dimostrata. Però qui si pone poi il problema di vedere se le idee di Pozzo sono state realizzate integralmente o no, come sono state interpretate, chi le ha interpretate, e qui c'è ancora molto da lavorare e ci sono ancora molti punti da chiarire. Sta di fatto comunque che è una chiesa molto interessante, più che nella facciata, che è abbastanza piatta e che comunque anche qui presenta sopra il portale appunto San Francesco Saverio nella posizione più nobile, in piena evidenza, in piena luce. Più che l'esterno, è forse interessante l'interno, direi. L'interno con questa navata, questa bella navata unica, che dà questa sensazione di uno spazio unitario, anche qui con grande risalto dato proprio a certi elementi cari proprio all'architettura di Pozzo, alle sue incisioni e anche ad altre chiese realizzate per il proprio ordine, altre chiese dei gesuiti, no? Ecco, qui vediamo la pianta che ci fa appunto leggere questa struttura, che è sostanzialmente basata su una unica aula che viene interrotta da dei grossi pilastri aperti a balconata, con un grande effetto proprio, diciamo così, proprio scenografico. Qui vedete appunto l'interno con i grandi pilastri aperti dalle parti e qui a Trento, al Museo Diocesano, si conservano due piccoli dipinti che presentano forti analogie proprio con l'interno della chiesa di San Francesco Saverio, così com'è. Uno è questo, e vedete sulla destra appunto la porta, le colonne, questa balconata alla quale si affacciano delle figure, e ne esiste ancora un altro che è ancora più aderente alla struttura della chiesa così com'è oggi, di cui non ho l'immagine, non mi è stato possibile avere l'immagine, ma che comunque è possibile vedere perché è esposto proprio nel percorso espositivo del museo. Dipinti che vengono appunto attribuiti a Pozzo, probabilmente erano delle idee e lasciate, forse nel suo passaggio a Trento durante il trasferimento a Vienna, intorno al 1703, perché sappiamo circa 1703-1704, che poi vennero appunto interpretate e realizzate, non sappiamo da chi, forse da Mignocchi, che era un pittore, ma è una figura d'artista non molto conosciuta per poter dire qualcosa di certo. Ecco, qui ancora all'interno della chiesa di San Pietro Saverio. Poi, per quanto riguarda, opere del Pozzo in ambiente trentino, abbiamo questo dipinto. Questo dipinto raffigura appunto un momento, il momento del riposo durante la fuga in Egitto. Riposo perché appunto San Giuseppe, vedete, no, raccoglie una pera da un canestro che gli viene porto dall'angelo e lo offre al bambino che è appunto tenuto in braccio dalla Madonna, con composizione abbastanza movimentata, molto, molto bella, eh? Basta vedere appunto come le figure sono legate in modo fluido, come ci sia questa capacità narrativa tipica appunto del nostro artista. Bene, questo dipinto è stato realizzato in origine per la chiesa delle Laste, cioè per la chiesa dei Carmelitani, e in questa chiesa viene ricordato come opera di pozzo fino alla fine del Settecento. Poi nel secolo scorso, nell'Ottocento, chiesa viene sconsacrata e il dipinto con l'altare viene venduto al comune di Lasino, che lo mette nella chiesa di Lasino. Questo che vi sto dicendo, si basa su ricerche, effettuate da Rasmo, da Niccolò Rasmo, che ebbe il merito appunto di individuare, nella chiesa di Lasino il dipinto di Andrea Pozzo, realizzato da Andrea Pozzo per la chiesa dei Carmelitani di Trento. E un dipinto che ha avuto una grandissima fortuna perché è stato copiato da molti artisti in area trentina. Ci sono circa almeno una dozzina di esemplari con delle varianti, copie varianti di questa composizione in chiese trentine, nelle canoniche, in musei, in raccolte, eccetera. E poi è stato replicato con modifiche, con varianti, dallo stesso Pozzo nella sua attività, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, a Torino e a Genova. Quindi, diciamo che in area trentina, diciamo, l'opera pittorica più importante è questa. È un problema però, dire quando sia stata realizzata, perché sembra troppo bella, troppo matura per essere stata realizzata quando era a Trento, cioè diciamo quando aveva circa poco più di 20 anni. Sembra opera di un pittore molto più maturo. Può averla eseguita, diciamo, in Lombardia, a Milano, e poi averla mandata ai Carmelitani, perché appunto prima, non so se prima l'ho detto, ma forse un po' così fuggevolmente, prima di entrare nella Compagnia di Gesù, Pozzo è stato per un anno, credo per poco tempo, nell'ordine dei Carmelitani, cioè nel convento delle Laste. Poi è passato a Milano in un secondo tempo. Comunque appunto il dipinto attualmente si conserva nella chiesa di Lasino su un altare laterale, è stato restaurato alcuni anni fa. E poi stiamo arrivando al termine del nostro discorso e qui ormai siamo a Vienna. A Vienna Pozzo lavora molto, lavora alla chiesa dell'università, quella che attualmente si chiama chiesa dell'università, che nel 600 era dei gesuiti. E anche qui realizza una finta cupola, poi trasforma in senso barocco tutto l'interno della chiesa, sarebbe un lungo discorso. È una chiesa comunque molto bella, che proprio riceve, che cambia volto grazie proprio all'intervento di Pozzo. E a Vienna lavora anche, diciamo, per la corte e realizza degli apparati effimeri, no? Questa è una stampa che ci tramanda l'aspetto del catafalco realizzato, mi pare, nel principio del Settecento, in occasione della morte dell'imperatore Leopoldo I. Ecco, questo è un tipico effimero, no? Una di quelle tipiche strutture che venivano realizzate sia per le festività religiose, ma anche per festività profane, oppure anche per occasioni di lutto, la morte dell'imperatore o per altre ragioni di carattere ufficiale. Quindi questo, diciamo, è uno dei documenti dell'attività viennese. E poi Pozzo, poi, che appunto non esegue praticamente nulla di tema profano, perché dedica proprio tutta l'intera vita alla propria arte, diciamo, alla diffusione appunto dei temi religiosi, cioè pone se stesso al servizio della Compagnia di Gesù, no? E qui a Vienna realizza un'opera profana, cioè il Trionfo di Ercole, e lo realizza nel palazzo Liechtenstein, cioè nel palazzo di colui che era stato ambasciatore dell'imperatore a Roma. E questo, e anche qui vedete appunto ricorrere quelle strutture architettoniche che sfondano il soffitto, che creano questa sensazione di spazi dilatati, con influssi che naturalmente sono facilmente immaginabili sulla pittura, sui sviluppi della pittura d'Oltralpe. E allora, per concludere queste brevi note, ho scelto un edificio molto famoso e molto bello, che ha in sé molti elementi del barocco romano e molte idee del Pozzo, intendiamoci, filtrate, no? Filtrate attraverso diverse esperienze. L'autore, qui Pozzo non c'entra come autore, l'architetto è Prantauer, Jakob Prantauer, uno dei grandi architetti austriaci, insomma, del principio del Settecento, che però si ispira direttamente, insomma, a idee romane. E qui appunto vediamo questa facciata molto movimentata, qui ancora un dettaglio, qui vengono in mente le architetture di Borromini, no? Oltre a certe esperienze di Pozzo, no? Ma vediamo l'interno, che è più interessante. Beh, qui sono alcuni dettagli così ci danno l'idea di questo fasto barocco romano trapiantato sulle rive del Danubio. Forse ho dimenticato di dire dove siamo a Melk, questa è l'abbazia di Melk, cioè che sorge su quello scoglio roccioso in una posizione geografica veramente affascinante, proprio sopra il Danubio. Credo che sia circa 70-80 km prima di Vienna, no? A monte, no? Di Vienna. Bene, quindi vediamo questo trasferirsi, diciamo, dei concetti dello sfarzo, dello spettacolo, della volontà di stupire, da Roma, diciamo, nella terra del Danubio, nell'Austria, quindi nella Europa centrale. E le idee pozziane poi le troviamo qui trasformate, naturalmente, però in modo originale, in modo molto interessante, in questo altare. Per esempio, questo è l'altare laterale di sinistra, quindi qui viene in mente l'altare di Sant'Ignazio, no? Nella chiesa del Gesù. Capolavoro di Pozzo, che certamente servì di modello, no? Questo splendido altare, anche qui vediamo questa grande valenza proprio spettacolare, scenografica, eh? E ancor di più, e qui adesso poi concludiamo, questa credo dovrebbe essere proprio l'ultima immagine, nell'altare maggiore. Anche qui questo altare è evidente che non è pensabile se non tenendo conto di prototipi, di esempi proprio di Andrea Pozzo, perché qui abbiamo questa sintesi proprio delle arti su cui si basava il barocco: architettura, scultura, effetti teatrali, al punto che voi vedete un altare maggiore che invade tutta la parete absidale, la parete di fondo della chiesa, quindi che si sostituisce, insomma, in un certo senso all'architettura vera e propria, al muro che regge le volte. Per cui qui viene addossata la parete di fondo quasi un'effimera, potremmo dire, non nel senso che veniva tolta, ma effimero nel senso che non è collegato con la struttura, ma ha una funzione proprio di rendere spettacolare il culto religioso, no? E quindi qui possiamo benissimo ricordare appunto i teatri sacri del Pozzo, questi effimeri, queste scenografie nelle quali appunto tanto si era distinto e per le quali tanto si era reso celebre. E queste opere di Melk, della chiesa dell'abbazia di Melk, appunto sono solamente uno dei documenti appunto dell'influsso del Pozzo in Europa, nell'Europa centrale, e della sua dimensione non solamente italiana, ma della sua dimensione europea. E così ho concluso. Grazie. Allora, grazie innanzitutto al professor Chini per questa relazione così ricca, così suggestiva, così sapientemente commentata rispetto a quello che le immagini dicono in parte anche da sole. Se gentilmente il professor Chini rimane a disposizione ancora per qualche minuto, se c'è qualcuno che vuole così chiedere qualche chiarimento ulteriore, nonostante l'ampiezza della trattazione svolta finora, naturalmente c'è questa possibilità. Prego. Due domande. Dal punto di vista dell'illusione prospettica, che cosa ha trovato di nuovo? Ha portato avanti qualche cosa? Ha provato moltissimo. È stato da sì in questi giorni, visto che lo stesso Giorgio si diverte in lungo e moltissimo. E infatti. Ho già detto che Pozzo diciamo, è l'anello di una catena che aveva già avuto inizio nel Cinquecento. Quindi lui in realtà porta, diciamo, la massima espressione, una tradizione pittorica prospettica che già aveva delle salde basi. Solo che la realizza su grande scala e poi ha il merito proprio di teorizzarla e di illustrarla puntigliosamente nel trattato. Cioè non si limita, diciamo, a realizzare l'opera, ma gli preme anche diffondere queste conquiste. E ha avuto, diciamo, proprio in questo senso una funzione pedagogica importantissima, proprio. E quindi direi questo è un elemento, direi, molto molto importante. E sul, per quanto riguarda l'altro aspetto, il nesso, diciamo, arte e fede, insomma, nel caso del Pozzo, direi che l'arte, la pittura, da un certo punto di vista è al servizio, diciamo, dell'esaltazione della Chiesa come potere, no? Anche in un certo senso come entità trionfante, però abbiamo sempre questo senso del trascendente, per cui questa ricerca dell'infinito ha al suo interno proprio una base religiosa, perché l'infinito pittorico, nell'infinito prospettico, non è altro, secondo il Pozzo, che l'immagine dell'infinita bontà e misericordia di Dio, diciamo, e anche, se vogliamo, delle infinite possibilità che sono insite nell'anima umana. E questo possiamo intuirlo, credo, proprio dalla fantasia di Pozzo, da questo proporre tante idee, anche strane, questo giocare quasi, come dire, ci sono molte risorse all'interno dell'anima, dell'uomo, più di quante l'uomo stesso non sospetti, e l'uomo può diventarne consapevole tenendo presente del fatto che esiste appunto la provvidenza che tutto muove e che tutto comprende, diciamo all'interno della sua azione. Quindi allora questo infinito, questo suggerire l'infinito non è un invito a perdersi, a smarrirsi nell'infinità di questi cieli, ma è un invito proprio a ricercare la divinità concepita come infinita, ma non un infinito in cui ci si smarrisce, ma un infinito che provvede, la provvidenza, cioè una divinità che è sì lontana, ma contemporaneamente è vicina. Quindi in questo senso forse si può vedere, e soprattutto proprio direi nell'affresco con Sant'Ignazio, la valenza, diciamo così, religiosa di Pozzo. Naturalmente Pozzo è uomo del suo tempo e quindi possono essere anche considerate queste raffigurazioni dal punto di vista, diciamo, anche della propaganda, perché il barocco è anche propaganda, no? Propaganda dei dogmi, della fede, dei concetti della fede, dell'attività della Chiesa. Però se vogliamo vederla nell'aspetto più positivo, che era certamente quello che aveva in mente Pozzo, dobbiamo considerarla nel senso della infinita, secondo me, insomma, dell'infinita bontà di Dio all'interno di un universo che è infinito, ma di cui non c'è da aver paura, perché abbiamo dei punti di riferimento. È proprio il fatto, insomma, che alzando gli occhi in una chiesa uno non si veda semplicemente degli stucchi o delle banali pitture, ma si veda addirittura il paradiso, perché questa è la mentalità del tempo, l'intenzione, è già un elemento di conforto, no? Cioè può essere letto come elemento di conforto provvidenziale, o può essere letto come elemento semplicemente spettacolare, oppure può essere letto anche come elemento puramente trionfalistico. A volte le cose coesistono, però io sono convinto che il primo concetto, cioè la provvidenza che provvede a tutto, era al centro delle idee, delle intenzioni artistiche di Pozzo. Chiaro che poi da concezioni di carattere religiose ben fondate, come sicuramente erano quelle di Pozzo, si può passare al mestiere, e quanti artisti lo hanno fatto e sono passati a un'applicazione da prestigiatore delle regole prospettiche di Pozzo. No? Non so se sono stato chiaro, ma io ho questa sensazione proprio nel caso nostro, insomma, di Pozzo. C'era un'altra domanda, mi pare. Riguarda l'architettura gesuitica generale, posso farla? Sì, vediamo. Il gruppo San Fedele di Milano, sì, nell'ambito delle celebrazioni gesuitiche, ha organizzato una mostra in cui faceva vedere appunto come l'architettura gesuitica si è diffusa in Italia, in grandi città, in piccole città, e hanno pubblicato un'interessante monografia su una mostra e sull'architettura, dove si sostiene la tesi che non esiste una architettura gesuita, cioè codificata dalla compagnia. Esistono certe forme, così che si ripetono, non è che ho guardato quelle logette che ci sono qui anche a Sapere, a San Sapere, no? Sì. Le balconate. Le ho trovate a Milano, San Fedele, per esempio, quella che c'è all'incrocio tra Via Verdi e Via Andegari. Ora, lì si sostiene proprio tassativamente che uno stile gesuitico, invece qualcuno ha creduto di dover individuare, non esiste. La domanda era questa: Pozzo, col suo trattato, potrebbe essere una specie di sostituto, non so, di integrazione appunto teorica, quando la compagnia invece ha dato determinate indirizzi, però non tipo architettonico stretto, non formale, più che altro di costruttività, di indirizzi molto sensati, molto, molto pratici, perché si sviluppano ovviamente le persone un credito anche pratico. Volevo appunto sapere se lei può pensare intanto che non esiste una effettiva architettura gestionale. codice di Marco Vesuvio. Grazie. Sì, è indubbiamente vero che non, cioè questa questa opinione, insomma, dell'architettura gesuitica così codificata è un vecchio concetto della storiografia artistica che è stato giustamente superato, insomma, che non ha senso, insomma, voglio dire, sì, ci sono dei modelli ricorrenti, vabbè, che però troviamo anche in altri ordini, non necessariamente, oppure anche, no? Quindi non esiste un'architettura specifica d'ordine dei gesuiti, anche se è vero che un ordine come quello, ma anche un altro ordine, come per esempio quello dei Teatini, spesso aveva al proprio interno architetti, pittori, artisti valenti. Quindi, diciamo, conservavano, seguivano una certa linea, un certo orientamento di gusto, anche perché disponevano già al proprio interno di personalità colte, capaci di progettare e di dirigere lavori, no? Ma certo, l'architettura gesuitica è una delle false etichette di cui è meglio sbarazzarsi. Per quanto riguarda il trattato, scorrendo il trattato, si ha subito questa impressione, cioè non si ha l'impressione che Pozzo volesse dare delle norme su come dovessero essere per venire nel concreto, le chiese dell'ordine. Non è questo. Lui si preoccupa, infatti il titolo è La prospettiva dei pittori e degli architetti, non l'architettura delle chiese, non so. Ma allora è tutto un suggerimento, sono degli esempi, delle tecniche, delle tecnologie, sulle infinite possibilità di sviluppare apparati decorativi, sistemi decorativi. Basati sulla prospettiva, no? Sull'applicazione della prospettiva, sistemi decorativi anche abbastanza diversificati, ma non con l'intenzione di rimanere rinchiuso in una teorizzazione all'interno dell'ordine e men che meno legata a una forma architettonica ben precisa. Infatti, esponendo il trattato, vediamo apparati, vediamo altari. Vediamo dettagli architettonici, cupole, tanti elementi pronti per, diciamo, per l'applicazione, insomma, quasi dei doni, insomma, offerti ai colleghi artisti perché ne facessero l'uso migliore, insomma. Ecco, poi, a proposito del trattato, casomai va aggiunto un altro fatto che sarebbe auspicabile, e di questo nel mondo degli studi si sente la mancanza,